la ziota. Com'è? Beh, allora, che sei l'amico di sorso? Come arrivo? Io ti sento bene, tu mi senti bene? Gappa. Appena tutta gatta è cotturata. Qua è San Pi, come ti arrivo in radio, come si dice? Come ti arrivo in segnale? Aspetta, Gammarito, fa un passaggio. Prova, 1, 2, 3, prova, brecco. Sei quasi 9:20, sei, radio 5. Io ti sento bene, sei un fortino, eh. Gappa, Antonio sì. E Antonio sono. Andave, San Pietro a Sorso. Aspetta che provo l'altra radio, che sto occupando una cosa. E mi dici se sta uscendo. Gappa, ok. Con l'altra non mi senti, no? Strano. Ma hai fatto il passaggio? Aspetta che apro lo squelch a vedere. Prova, Sampi, prova a vedere. Ho aperto lo squelch. Va la prospera, va. No, non ti sentono. Capito? Ciambi? Va morto ci si. Non ti ho mai sentito. Com'è che ti sta arrivando? Io ti sento bene a te comunque. Già va bene. Va benissimo. Che antenna c'hai? Già va bene, stai uscendo abbastanza bene, dai. Comunque sono a Sassari io, non ho sentito più a Franco di Sorso, tu da morto che non lo senti? Ah, capito. Bene, va. Adesso non ti ho capito, c'è Santiago 5, Radio 4, Santiago 5, Radio 4. Hai capito? Gappa, e con questa come ti arrivo? Fa un altro passaggio. Prova, 1, 2, 3, prova, brecco, cambio. 7 e 4, sì, 7 e 4. Andave, questa è un'altra radio, questa è una... il 48. Ah, la 48. Va bene questa. Questa è migliore, vai. Andave. Questa c'è l'antenna... Game System. Già va bene. Gappa Roger, anche come voce va bene. Ah, voglia. Va benissimo come radio, va benissimo, bella chiara. Gappa. Oggi c'è una giornata un po' strana. Comunque già funziona, là. Pensavo me ne avevi accorto l'antenna. Mi sento bene, così che già sta funzionando bene e per cui non ci sono problemi. Abbastanza buona la radio, vai. È quasi 5 la radio, Sì, Santiago è 7, radio 4 e mezzo, va. Gappa. E io come ti arrivo? Che segnale ti arrivo? Ti sento chiaro, però non ti so dare così giusto perché l'SMITER mio non funziona bene. L'importante è che riesci a capirmi bene, vai. No, no, ti copio bene. Che zona sei di Sassari? Latte dolce. Gappa, no, allora già va bene. Allora conosci a Giulio? Giulio ha le punti. Giulio si trova alle punti. Ah, capito. No, pensavo che era anche lui lì a latte dolce. No, no. Lui abita alle punti, ai punti. Gappa, tutta la sabbatti, Come? Ho detto che è all'altra parte lui. Beh, un po' distante da qua lì. Sì. Aspetta che accendo l'altra a vedere, voglio vedere se più o meno la voce va bene. Eia, dai. È lo stesso, Quattro e mezzo è sempre sette il segnale. Quell'altro di prima era Santiago 7, questo è Santiago 6. È lo stesso, dai, ti sento bene. Però l'altro è più chiaro, dai. Ma è passaggio più lungo. Ma già va bene, dai. Già va bene. Va bene quel microfono, va benissimo. Va benissimo. Come? Un attimo il telefono. Un attimo al telefono sono. Beh, ci sei. Ehi, gappa. Ascolta. Allora conosci quello che ha al riferitore della Fina, lì a Sorso. Che quello parla in baracchino. Sì, che lo conosco, capito. Quello si chiama Affadenza, Affadenza. No, allora un altro quello. Quello che c'ha tutte quelle antenne. Qualche volta parla lì dal riferitore, hai capito? Sì. E che è da parecchio non lo sento. Volevo sapere se lo conoscevi, dai. No, a dirti la verità, no, a quello non l'ho mai sentito. C'è un altro che abita vicino e già lo sento, ma a lui no. È al riferitore della Fina. Affadenza, di nome no, non mi ricordo come si chiama, però come nominativo del baracchino è Affadenza. No, a quello no, non l'ho mai sentito la verità. A Franco, a Gavino e agli altri sì, ma Alfa Delta non l'ho mai sentito. Se capita lo chiedo a Franco o a qualcuno. Ce ne sono parecchio a Sorso, Ce ne sono parecchio a Sorso che da tanto lo sento. Per cui tutti hanno disaltato dal baracchino. Ma io ce l'avevo da quando ero ragazzo, poi l'ho rispolverato dal mobile e ho detto, adesso attacco tutto. Oh, la moto ce l'hai il baracchino tu? Mi lavorerà giù che sino 20 anni. 20 anni? Allora già mi è conosciuto parecchio. C'era anche Giuseppino Trattore una volta. Gappa, c'era anche il braccio di ferro. Poi c'era... dunque, che altro c'era? Adesso non mi ricordo più. C'erano un saccaccio, ce n'erano, che parlavamo tanti anni fa, capito? Evidentemente hanno mollato tutto, se si trovano ancora là. E poi c'era Albatros di Porto Torres, Alfa Verde, e poi chi c'era? Di Sosso c'era Falconero. Già ce n'era qualcuno. Falconero è a Sorso, Antonio Giuseppe, Paolo Corero, quello lo conosco in persona, per cui anzi, se lo senti o se lo vedi, salutami da Gio Maria. Gaffa, ma mi sa che non lo so se ce l'ha ancora la radio mi. Io ti parlo che all'epoca facevano, come si dice, erano CISOM e tutte cose, ed era sempre un po' presente nella radio, però stavamo sul 5. No, già ce l'ha perché ho sentito 2 mesi fa. Solo che aveva veduto la campagna, se l'ha preso una vicino a Sorso e se l'ha presa una più piccola, e per cui già si trova ancora lui là. Un paio di mesi fa l'ho sentito. Gaffa, no, allora già lo so chi è, perché abita, la figlia abita vicino a me, diciamo, là. Se lo senti, già ce l'ha ancora il baracchino, ce l'ha, pagare sta entrando poco, però già ce l'ha il baracchino, è un grande amico mio. Sì, no, già lo conosco. Ecco, me l'altro nome nominativo era Falconero, Falconero, Antonio Giuseppe lo chiamo io, non Falconero, Antonio Giuseppe lo chiamo. Sì, vabbè, io mi ricordo il nominativo, perché era Dogo, dai, come nominativo era Dogo. Ehi, quello è vecchiotto di radio quello lì, è da parecchio che c'è la radio, capito? E per cui ci sentivamo, e come tanti altri che non ci sono più, come Giuseppe Trattore, anche il fratello, che il fratello Giuseppe Trattore abita a Sedoli, abita. Giuseppe, no, aspetta, come si chiama? Falcone, no, non mi ricordo più, va. Non mi viene in mente, va. Gaffa. No, già ce n'erano. Poi c'era un bel di gente, già c'era un bel di gente. Ma io ti parlo del... Allora, c'avevo la macchina, avevo preso la macchina nel 95, 90, 90 sì, 94, una cosa del genere. Vabbè, comunque già si sente pure, non è molto, però Falconero è un vecchiotto del baracchino, è un vecchiotto, ce ne ho parecchio, non mi ricordo tutti i nominativi, però ce n'erano almeno una quindicina, poi c'era quel genovese che aveva il negozio di Parlamento, non mi ricordo come si chiama, che allora avevano al terzo pezzo, l'avevano i bar, ci avevano anche quello lì, era un CB, e poi è passato il radioamatore quello lì. Hai detto al primo pittine, ma De Rosas. Genovese era padre, là, il padre era genovese, però poi avevano messo in questo negozio di Parlamento a Sorso, capito? Allora forse ho capito, Bergonzi. Esatto, sì, adesso mi ricordo anche il nome. Sì, no, non c'è più quel negozio, c'è un bar, mi sembra, adesso lì in quella piazzettina dove aveva il negozio. E io li ho conosciuti lì a Terzo Pizzine, che aveva un bar, il bunker tutto di cemento era fatto, e loro avevano messo il bar, e io facevo campeggio allora lì, capito? E per cui li ho conosciuti personalmente anche al negozio, varie volte sono andato. Siccome allora quel periodo facevo il trasportatore, portavo la merce anche al negozio, capito? E la gappa, gappa, poi c'era sempre la moglie, mi sembra, al negozio. Ia, ia. Perché anche quello era un vecchio civile, già è 2 anni, è un mezz'anno fa, e ce n'erano tanti, non mi ricordo i nomi nativi, però io a sorte c'erano un saccaccio, mio era una ventina. Ehi, perché ce l'avevano quasi tutti, da. Io all'epoca mi chiamavo Piri Piombo, non lo so se magari se ti sale questo nome. Ehi, ehi, poi ne conoscevo un altro, Mario Marreu, Mario Marreu. È sempre di Sorso. Ehi, ehi, infatti, si è sposato con una di Furevi. Sì, sì, sì, mi pare che su Mario Marreu abita in piazza, cioè diciamo in piazza, da. A dire la verità non lo so dove abita, sì. So che la sorse sulla strada per andare alla marina, mi sembra, una cosa del genere, mi sembra che abitava allora, ecco. Eia, eia, perché ce ne sono tanti a Sorso di Mario, però quello che aveva il baracchino è quello che stai dicendo tu. Era in Germania quello lì, era in Germania sposato di una polacca. Sì, sì, già è lui, già è lui. Mi sembra che c'ha, se non sbaglio, mi sembra che c'aveva anche una campagnetta vicino all'hotel degli Ulivi. Eia, eia. Ci siamo incontrati una volta, una decina d'anni fa, lì a Sassari, era lui e la moglie al policlinico, stava facendo una visita, ci siamo incontrati tanti anni fa, capito? Però ci conosciamo da un mezz'anno, perché siamo stati in Germania tutti e due insieme, capito? Sulla stessa ditta, ecco perché lo conosco a quello lì. Eia, infatti... quanti anni avrà? Avrà una settantina d'anni o di più. È più. E adesso è grandetto, dovrebbe essere grandetto, Sì. Ma penso che sia ancora in vita. Sì, sì, mi pare di sì. Ok. Così che, per dire, io le conoscevo, perché io ti bazzicavo parecchio a Sorso, capito? Io facevo il trasportatore, per cui ne ho conosciuti parecchio, gente molto brava, vai. Gente molto brava a Sorso, perlomeno. Io ho conosciuto sempre gente brava, capito? Ma sono bravi a Sorso, secondo... dipende sempre da chi è, capito? Però in genere siamo bravi, no? Che magari siamo un po' buffoni, una accusa a Rusaghi e a Villelle, là, che si pigliano in giro, ma sono tutti quanti bravi, so. Sono passati gli anni adesso, e chi ce ne ricorda più di tutto? Qualcuno già me lo ricorda ancora, però... No, perché ci battevamo parecchio, capito? Perché conoscevo Medieta, adesso magari dopo tanti anni che non... Già esco, sì, però non giro come prima. Prima giravo perché avevo il camion e giravo sempre, dappertutto, capito? Adesso invece sono in pensione e per cui mi sono dimenticato anche i numeri. Quindi avevi la barra pesante. Eia, eia. Andave. E no, già ce n'erano che avevano il mezzo pesante a Sorso. C'era anche coso, quello del calcestruzzo, però non ne so se ne aveva del radio. Anche quei e Manuccia, anche Manuccia conoscevo, capito, tutta la famiglia che lui abita lì vicino alla fattoria, ultimamente abitava la fattoria, mi sembra che quello sia già morto però, Sì, ma allora, a dirti la verità non lo so, però quei manuta lì, sì, erano, a chi in sorso Denisio Matteo ci parecchi ma nulla, eh. E c'aveva un negozietto di alimentare, la figlia c'aveva a Sorso, capito? E non mi ricordo la via. Però lui poi si è fatto la casa vicino alla fattoria. La moglie non è di Sorso, è di Muros la moglie, capito? Non so se si trova la moglie, boh, lui so che è morto. Sì, sì, sono parenti di quei Manuta che ci hanno cosa di Bussudini, che sono pastori, mi. No, anche lui aveva un camion, capito? Era mio socio, era con loro, che aveva Manuta. Ho capito. No, la moglie non ce l'ha più il negozietto, forse mi sembra che ce l'aveva la figlia, ma poi avevano chiuso tutto. Boh, non lo so di questo, Ma tanti anni fa, mica, sono mezz'anni, mezz'anni che adesso, non è, mi ricordo al 100%, però, ripeto, io e Gavino siamo stati soci un pare, facevamo con l'età insieme, capito? Lui aveva il cambio come il mio, capito? E infatti prima era diverso, era più bello, era prima là, non c'erano tutte le cose, le restrizioni e tutti i canti di rigori che bisognava. Eia. Vabbè, dai, ti devo lasciare, dai, che c'è gente. Ma fate piacere che ho sentito uno di Sierra Osca, dai. Buon proseguimento. Ma fate piacere che ho sentito, dai. Comunque sono Gian Maria Figaro, Gian Maria Figaro di Sassari. Gaffa Roger, gaffa. Anche a me ha fatto piacere. Magari ci sentiamo nelle prossime, Gian Maria. Tanto mi qua sul canale c'è Gianni Doppio Marto, c'è Antonio, insomma dai, già c'è qualcuno. E anche sul 12 in FM, Franco sta sul 12 in FM. Insolito, in FM c'è anche Franco da Sorso e Gavino da Porto Torres, eppure parlo sempre in FM, su 12 però parlo. Ma io su 12 raramente che entro, comunque su 10 sono sempre ascolto, dalle 7 meno quarto fino alle 7 e quarto sono sempre in ascolto, capito? Ciao Gian Maria, buonasera. Oh, fra tu sì. Gaffa che sono io. Ciao anche a Gianni. Me l'ha ascoltato dopo tanto. Ehi, ciao fra. Infatti pensavo siamo comparati o meno. Ho detto che conoscevo anche a te già, e già me l'ha detto che ti conosceva. E mi fa piacere anche fra, dai. Cosa vuoi fare? Non ho più voglia di chiacchierare a baracchino, ma ogni tanto così mi attaccavo e era attento. Oggi ho trovato questo paesano tuo, chissà come, e sto chiacchierando, però non ne ho voglia più, Gio fra. Vabbè, stiamo diventando grandi, Gio Maria, purtroppo è così. Sì, Gianni abita un po' più giù di me, abita, è vicino a me, là, pratica, un paio di vie. Ogni sera ci facciamo una piccola chiacchierata, quando capita, siamo sempre sul 10, sul 12 in FM, come ti ha detto Gianni. Ok, avanti Gianni. Ehi, gaffa, ciao fra, buon pomeriggio, mi. E stavo provando una radio e l'altra radio, il 68, perché gli ho attaccato l'antenna, l'altra quella bastone piccolina, e già funziona come a te. E niente, poi ho fatto prova, ho chiesto un Radio Santiago e mi ha risposto Gio Maria, e stavamo parlando dei vecchi, dei nuovi, di Falconero, di chi c'era allora, capito? Sai come si fa, certamente. Io ero sul 10, ero sul 12, ero, e sentivo questo sbattere, giù te c'è vedere i carri. Ho girato e direi tu con Gio Maria. Avanti Gio Maria. Ok. Stavo, devo lasciare che hanno suonato, che c'è mia figlia che è venuto. Grazie, troppo tardi sei entrato, fra, comunque mi ha fatto piacere, ti ho sentito. Buon proseguimento, saluto Riccardo, dai, devo chiudere per forza. Ciao Cagiani, dai. Già ci sentiamo, fra, chiudo urgentemente. Ciao, riprendi tu, vi saluto. Ehi, ciao Giovanni, anche a me ha fatto piacere di sentirti dopo tanto. Ciao, ti ascoltiamo le prossime. Avanti già. Ehi, ciao Giovanni, buon proseguimento e buon tutto. Ci sentiamo alle prossime, se coincidono i tempi, e già siamo sempre qua. E mi ha fatto piacere, dai. Alla prossima, ciao, ciao. Ok, ciao, chiudo, fra, ciao, riprendi tu. Ciao. Ciao, ciao a tutti! Ciao Gianni! Mi prova di lasciare la radio, io aspetta che la prova, quindi spengo un attimo qua. Certo che stiamo usando, perché? Oh, una cosa c'ha? È buono! Niente, c'è questa, c'è quell'antenna a mattone, quella la tandem, o come si chiama, Thunder. Ma quello, questo deve provare in lontananza, a chi, allora noi siamo attaccati, diciamo, e ti tengo pure se mi cave l'antenna, compreso, e non vedi differenza, sei sempre con lo scala. Gaffa, no, con qua stavamo parlando prima con Gio Maria, perché mi ho sistemato un pochino i nomi, mi venivano un bel di gosi, nata su gosi, e quindi gli ho attaccato lo spinotto dell'altra antenna e ho detto se va bene. Capo, certo che va bene, va bene. Puoi mettere una radio a una e una radio all'altra. E infatti qui c'è quella lì e nell'altra c'è quella lunga, diciamo, lei l'antenna. E niente. E va bene così. Quindi chi c'era sul 12? C'era Ravino. No, c'era nessuno. Io ero messo dormito, poi ha inteso batteri, ha detto lascia vedere, ha giocato e venire giù con Gio Maria. E infatti io non l'avevo mai sentito, lui mi ha detto no, entro ogni tanto, mi ha detto che lui accende dalle 7 del mattino alle 7 e mezzo di pomeriggio la radio, e niente. E stavo, gli ho detto a vedere di farmi questa prova con questa radio qua, e mi ha detto che già gli arrivavo bene, invece con il Galaxy gli arrivavo un po' più forte. Capo, sì. Sì, è uno dei CB più anziani che ci sono a Sassari, uno dei più anziani. Adesso non mi ricordo che più anziano, se lui o Giulio, però sono uno dei, tutti e due sono i più anziani di Sassari. Sì, me lo stava dicendo, lui è a Latte Dolce e Giulio è a Lippuni. Esatto. E allora, capito, te rigiureni di... Vedi che ogni tanto quando c'è qualcuno in radio si sente sempre qualcuno nuovo, diciamo, là. E poi c'era Antonio, c'era prima. Ah, capo, sì. Ah, io sono entrato perché ho sentito che c'era Gio Maria, ero ma tanto non lo sentivo, sono entrato a salutarlo, perché ero tanto tempo che non lo sentivo più. Gaffa, Roger, infatti mi ha chiesto, mi ha detto, ma Franco di Sosso, tu sì che c'era, tutta mattina stavamo parlando, abita un po' più su di me. Ah, mi fa piacere, ma qui ero da tanto che non entravo. Mi ha detto, oggi mi ha detto, non so, ma non so, siamo qua di studia, girando i canali, facendo un po' di zapping col barattino, e ha trovato a me, e stavamo discutendo là, e niente, tutto qua. E mi ha fatto piacere perché è sempre una persona nuova ed è bello cambiare due parole. Sì. Andrà bene. Beh, già, io devo uscire, e magari più tardi, dai. No, Franco di Sorso, buonasera anche all'altro amico. Una cosa io, e tanto già sono accese le radio, mi gira gira ne lascio una in così su 10 AM e l'altra me la lascio su 12 FM. Tanto io non le faccio niente. Ehi capo, no, a noi fa niente, però quando trasmetti una spegnila, che è meglio. Ai te, i ruffi viso, no, già la spellata è spenta adesso, se no si sente tutto il casino e fischi. Ehi capo, va bene, dai, ci sentiamo, a più tardi, ciao. Ciao, ciao a tutti, sono in ascolto. Ai te, ciao a tu, ciao Franco. Franco sta staccando, e a tu, tutto come arrivo, bene. Ciao a tu. Ciao, sei un po' più basso di Franco. Cosa tu? È un po' più basso di te, Fra. Chi, Gianni? Eia. Eia, ti credo, che è più basso di me. È basso di statura pure lui di me. Ciao, devo uscire. Ci sentiamo più tardi. Eia, ciao Fra, ciao. Aspetta, attacco l'altra radio, tu, che questa non c'ha molta potenza. Va la brospera, va. Allora, leggi il trugoso, Luigi Muro, lo fa naso, leggi. Vabbè, cuoco, vale. Oi, buonasera. E io qui stai parlando. Con l'amico di Sorso. E tu che come ti intendi, beh? La voglia che ti intendo, papà. Prima di bacio, me che è entrato pure un Claudio, mi non intendi mai, no? No, già lo sento, ma lo sento basso, lo sento, perché sicuramente è messo in un angolo dove magari mi copre qualcosa a me, perché lui forse mi sente, ma io non lo sento bene, quindi non capisco. Arriva Santiago 7, Anto, dove è sordo, io già ritengo sì. Tu già ti intendi, già, ha detto. Secondo me devi muovere un pochetto di barro di Sant'Enna, non mi pare che siano lì a Paesi, no. Sicuramente se mi metto un altro metro e mezzo, 2 metri di palo, dovrebbe imbattire di più. Sicuramente sì, perché no, non è possibile, tu ti intendi 7 e tu non lo intendi, non è possibile, è un'anomalia, sicuramente qualche cosa che non anda, e ci canta la mamma, mi va, che devo andare a casa di mia cugnata, devo andare a farmi la doccia. Ok, dai, ci sentiamo alle prossime, ciao Claudio, ciao a tutti, ciao ciao. Ciao Anto, ciao, ci sentiamo più tardi se coincide. Ciao Gianni Giambi, io ti intendo ma tu non intendi, ciao. Serata e tante cose belle, dai, già ci sentiamo. Un bacio a tutti, qua. Non intendi, non intendi, ciao ciao. Claudio mi senti? Io non ti sento, ti sento a tratti, non lo so perché. Io c'ho un'antenna, una Game System, quella in fibra di vetro bianca, 5 ottavi. Io ti sento benissimo, c'è il dubbio che non intendi, va bene, ciao. Ha detto che ti sente benissimo, se la sì che l'hai scioccato con le mani da villella, ma puttana non entra nessuno. Il minimo, bisogna che si avvicina vigliacca, il lavandoggio la vende di panni a trazza dura. Sicuramente, dai che devo lasciare, che mi sono preparato. Sentiamo, ciao. Andave, da. Ok, mi ha fatto piacere. Ecco, Gianni Doppio Rum, ci sei in ascolto, ora, qua è San P. Su corre bui, a me intende su corre bui. Ya chiamata su canale 10. Chiamata sul canale 10. Avanti chi è in ascolto. Allora, tutti addormentati o tutti quanti voi del faticante siete? E quindi attenti al gatto con gli stivali. Miau! Attenzione al corribui che ti mangia il gatto. Come ti arrivo, amico mio? Come ti arrivo? Bene, vai, segnale. E con cazzo va bene, dice. E cosa mi gioco? Miau. Beh, io sono in ascolto perché sto facendo pulizia e vi ascolto se c'è qualcuno. Gaffa, buon pomeriggio Gianni. Andiamo. Poco fa stavo parlando con Gio Maria, lo conosci a Gio Maria? Adesso era da me che non entrava. Sì, io lo conosco. Andiamo. Comunque mi con i Galaxy sono, sempre con i Galaxy, senza niente attaccato. Prenda sosa, vede. Freddo però, se stamattina mi ha fatto in terra di 4 e mezzo, era un vento a 60 km orari, io pensavo che si buscava l'antenna. E vabbè, quello è il primo nostro pensiero, anch'io sono sceso a guardarla, ma è già era tranquilla, cioè tiranti la mia. No, ma la mia è quella tipo canna da pesca, quindi pari è vera una spigola attaccata via, diventa tutto zembo. Pigia da me? No, si lava giusta, mi ha detto mio fratello. Perché gli ho detto, guarda se si vede, se vedi l'antenna come sta andando. Ma sono tranquilla, va bene. Capa, ma un Galaxy ti stai prendendo su subito? E quell'altro è quello lì, però se mi arrivano i pezzi non lo vendo. Perché ho ordinato i pezzi, ho preso l'RF Power, il potenziometro, poi l'RF Gain e lo Squerch, e sono siglati. Allora lo Squerch e l'RF Gain sono B10K, invece l'RF Power è un B1K, capito? E così proviamo a sostituire, se funziona me la tengo, oppure la vendo più bene. Infatti, ma se solo quella fesseria ti conviene tenerla, magari se il mio nuovo si sfascia l'altra c'è quella. E infatti, ma è nuova mia figlia, e che c'aveva quel problema con i potenziometri, che praticamente a volte funzionavano e a volte non funzionavano e usciva basso. Poi del resto magari funziona meglio di vista a me da pure i buoni rigorsi. Ok, dai, ti saluto che devo continuare, se no perché poi devo uscire, quindi non ce la faccio se no, dai. Andave, non ti preoccupare già, buon proseguimento, già ci sentiamo nelle prossime, se coincide, o se ci sei più tardi, già so che no, che sto girando un po' nei canali, sto facendo zapping nei canali. Ciao Gianni, già ci sentiamo, andave. Ciao, alla prossima.